In tempo di pace, suppongo, una dia come quella del consigliere Mattioli, capogruppo della Margherita a Palazzo Marino, quello che ha proposto, raccogliendo un appello del presidente Ciampi, che il comune doti ogni famiglia milanese di un esemplare di tricolore, in tempi di pace questa proposta non avrebbe fatto molta strada. I milanesi sono gente notoriamente seria, vadano al sodo, non hanno creduto mai più di tanto nei simboli e per di più della giunta fa notoriamente parte una forza che all'esibizione della bandiera nazionale non è mai stata propensa, e tanto che qualche dietrologo irriducibile avrà persino pensato che il consigliere Mattioli, con fine tratto politico, intendesse creare dell'imbarazzo ai politici del fronte avverso. Invece soffiano i venti di guerra, venti di cui è ben nota la capacità di sconvolgere le intelligenze più salde, e tutti si scoprono improvvisamente d'accordo. I leghisti bofonchiano, ma non più di tanto. L'assessore Gallera, che non so chi sia, accetta immediatamente l'invito, e appena due giorni dopo il vice sindaco decorato, che so benissimo chi sia, può annunciare che sì, la giunta ha deciso e la bandiera arriverà presto in tutte le case. E niente paura per l'aspetto economico dell'operazione, perché il comune sta già cercando uno o più sponsor. Non è chiaro se costoro potranno inserire il loro logo nell'amato vessillo e in quale posizione, se nel campo verde all'asta, in quello bianco centrale o nel rosso al battente, ma non c'è dubbio che in qualche modo e con soddisfazione di tutti il problema si risolverà. Di fronte a questa prospettiva, io vi confesso, mi sento più che altro imbarazzato. Io nutro un blando rispetto, come gran parte dei concittadini, per la bandiera nazionale. Non mi sognerei mai di farne l'uso suggerito anni fa dal ministro Bossi, ma alla prospettiva di trovarmene in casa un esemplare più o meno sponsorizzato, non so proprio come reagire. Tanto per cominciare, non saprei cosa farne. Non potrei farlo sventolare al balcone, perché risiedendo a un piano terra su interno di balconi, ahimè, non dispongo. Non posseggo un natante su cui inalberarlo, e anche se lo possedessi non potrei farlo, perché per i natanti si impone un modello speciale, e quello con lo scudo con gli emblemi delle repubbliche marinari, la doppia variante con il leone di San Marco armato di spada per l'uso in guerra e fornito di libro per le attività in pace. Non frequento gli stadi e non sono solito partecipare ai cortei e ai caroselli automobilistici dopo l'occasionale vittoria della nazionale di calcio. Per esprimere il mio attaccamento alla bandiera potrei al massimo metterla sotto vetro e appenderla al muro, ma vi assicuro che sulle affollatissime pareti dell'appartamento in cui vivo c'è davvero poco spazio. Sto scherzando, naturalmente. Sto scherzando, ma scherzo soprattutto per non sentire un certo amaro in bocca. La proposta, diciamo così, Ciampi-Mattioli, sembrerà a prima vista un'innocua manifestazione di patriottismo. Ma come ogni ostensione di patriottismo può essere letta in più modi e non sono tutti simpaticissimi. La bandiera simboleggia l'unità nazionale, ma non solo quello. Il tricolore ha avuto nella sua storia significati molteplici. È nato, con rispetto parlando, come simbolo di sottomissione, perché è chiaramente ispirato agli stendardi dell'esercito napoleonico entrato vittorioso nella pianura padana. E se è vero che quelle insegne riprendevano i colori della rivoluzione francese e ne perpetuavano in un certo senso gli ideali, ammetterete anche voi che un simbolo rivoluzionario imposto a mano armata è una cosa in cui si può ravvisare una certa ambiguità. E di quell'ambiguità, nella sua storia, nei due secoli della sua storia successiva, il tricolore, come tutte le bandiere di cui si hanno notizia peraltro, non si è mai liberato. È stato nelle mani dei congiurati e dei ribelli del Risorgimento un emblema di democrazia, e in quelle del governo unitario un segnacolo di autorità. L'hanno utilizzato tanto Garibaldi quanto il generale Bava Beccaris. Ha rappresentato la volontà di un popolo di essere libero, ma anche quella di asservirne degli altri, come ben possono testimoniare libici, eritrei, somali ed etiopi, e poi se un criminale internazionale come Bin Laden ce lo ricorda, è inutile far finta di offendersi. Ha sventolato a Cefalonia e a Salò. Perché l'unità nazionale, naturalmente, non è un fatto naturale e spontaneo, e non è neanche un puro prodotto dello spirito della storia, come voleva l'ideologia del nazionalismo romantico. è spesso l'effetto di un progetto e talvolta di un inganno, voluto da gente che persegue certi suoi particolarissimi fini. E tali fini ciascun cittadino ha diritto di verificare e di sindacare, senza che gli sia imposta nemmeno in forma simbolica un'adesione a priori. Liberissimo chi vuole di sventolare la bandiera proprio a quello altrui, al balcone, allo stadio, per strada, in barca o altrove. Altrettanto libero chi lo preferisce di astenersene. Sulle opposte opportunità si potrà sempre discutere con profitto. Ma quel gesto di inviare a tutti una bandiera a domicilio rappresenta una sia pur modesta ed implicita pressione, un invito dall'alto a risolvere quell'ambiguità in un senso piuttosto che in un altro. E questo, tutto sommato, presidente, consigliere, assessore, vice sindaco e quanti altri potevano anche risparmiarcelo.